Oui, mais de toute façon, en fait, cet état d'esprit, le premier but, c'est d'abord de nous protéger de ça. Sì, certo. L'obiettivo di questa risposta era quello di proteggersi. Bisogna rendersi conto che l'attentato al Bataclan è stato un evento collettivo. Quando è successo, tutti ne parlavano, specie in mia presenza, perché Hélène era al Bataclan. Il sabato mattina io sentivo l'esigenza di dover dire qualcosa a mio figlio, di dirgli: mamma oggi non è qui. Perché non sapevamo ancora che cosa le fosse successo, ma tuo papà c'è e ci sarà per tutta la vita. Potrai sempre contare su tuo padre. Gli ho detto che avremmo ricostruito una cerchia familiare costituita solo da noi due, ma anche che sarebbe stata una famiglia forte, solida e soprattutto felice. Il primo obiettivo, quindi, è stato quello di proteggerci, di non lasciarli entrare nella nostra vita. Verso l'esterno, però, era come comunicare un sentimento di disapprovazione e condanna, emerso quando ho avvertito il germogliare di un sentimento di odio in me, sul quale poi ho riflettuto e che non ho voluto far entrare nella mia vita. L'energia che stava dando vita all'odio l'ho trasformata in altro. La mia prima vera funzione di questa mia risposta era quella di proteggerci. Non les regarder, leur dire non. Ma la vera funzione c'était celle-là, c'était nous protéger. Questo era Antoine Léry, autore di Non avrete il mio odio, pubblicato in Italia da Corbaccio. Un libro importante, emozionante, fondamentale secondo me in questo periodo in cui gli attentati terroristici stanno segnando in un modo o nell'altro le nostre vite. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Che sicuramente appassionerà le persone che amano New York, ma le persone che in genere amano la letteratura americana, così possiamo dire. Si intitola New York Stories ed è a cura di Paolo Cognetti, pubblicato da Einaudi. Di Paolo Cognetti abbiamo parlato anche altre volte al Cacciatore di Libri. Ricordo giusto un titolo che mi è piaciuto moltissimo, Sofia si veste sempre di nero, perché lui è uno scrittore. In questo caso ha lavorato un po' con le parole degli altri, cioè ha fatto un'antologia su New York attraverso proprio la storia, seguendo un periodo cronologico e traendo dei brani, dei racconti, eccetera, da scrittori americani o che comunque, anche se non erano americani, parlavano di New York, della città. Giusto per fare degli esempi: Francis Scott Fitzgerald, Dorothy Parker, Henry Miller, Mario Soldati, che parlava per esempio degli italiani che emigravano negli Stati Uniti. Naturalmente non poteva mancare Truman Capote, ma anche scrittori più recenti come Don DeLillo, David Levitt e Nathan Englander. Allora Paolo, sappiamo che tu hai una grandissima passione per New York, che è una città che conosci bene, però insomma fare la selezione fra tanti scrittori americani e fra tutto quello che hanno scritto non deve essere stata una cosa facile. Che criterio hai seguito un po' per scegliere questi brani che poi letti di seguito è come se fossero un grande romanzo su New York? È un lavoro da lettore questo, ancora prima che da scrittore. È un lavoro di gratitudine, nel senso che è stato molto bello per me poter dire grazie a tutti questi scrittori che io leggo da tantissimi anni. Un criterio importante per selezionare nella vastissima biblioteca che sarebbe la letteratura newyorkese è stato quello di scegliere solo dei racconti. Non volevo estrarre brani di romanzo, pezzi. Quindi sono tutti racconti questi? Sono tutti racconti o capitoli di autobiografie. Quindi già il campo si restringeva molto. Un'altra scelta importante è stata quella di restringerlo al Novecento, La letteratura newyorkese nasce molto prima, nasce nel Settecento con Washington Irving, nell'Ottocento ha degli elementi importantissimi come Melville, come Henry James, certo, come Edith Wharton. Però diciamo nel nostro immaginario fa più parte quella del Novecento. Sì, insomma, perché credo che sia il nostro immaginario su New York, nel senso, sì, che noi ci siamo dimenticati che New York era una città molto più antica, borghese, un porto del sette dell'Ottocento, e per noi New York è la città del Novecento. E quindi ho scelto di iniziare con Fitzgerald, che scrive un racconto in cui parla del suo primo arrivo a New York nei primi anni del secolo, e di terminarlo con le Torri Gemelle. Credo che dopo quel giorno lì, in questo periodo il tema è più che mai attuale, purtroppo, attuale, scottante, così drammatico, dopo quel giorno le cose sono cambiate anche a New York. Secondo te, ecco, dopo le Torri Gemelle ci sono stati degli scrittori che, non so, per esempio Jonathan Safran Foer, con Incredibilmente, adesso non ricordo molto bene, forte, molto incredibilmente. Forte Incredibilmente Vicino, ma anche Don DeLillo, insomma, parecchi scrittori si sono misurati con l'America e New York dopo le Torri Gemelle. In molti casi non sono stati libri riusciti. Perché, secondo te? Io penso che in questi anni la letteratura americana stia vivendo una decadenza abbastanza evidente. Mi aspettavo che arrivasse la voce di una generazione di scrittori, di figli di immigrati. Cioè, pensavo che quello fosse il ventunesimo secolo della letteratura americana, e non è stato ancora così, non è vero. C'è stato qualche esempio, ma c'è qualcosa che non va. Credo che quel giorno non sia stato ancora del tutto superato. Sì, nessuno è riuscito a rendere, forse ci vorranno ancora tanti anni, insomma, a prendere ancora le distanze emotive da quell'episodio per riuscire a raccontarlo in modo anche letterario. Ma tornando invece alla tua raccolta New York Stories, abbiamo detto inizia con Francis Scott Fitzgerald, con il suo arrivo a New York. La cosa che mi ha colpito delle scelte che tu hai fatto, che non hai raccontato la New York scintillante, c'è anche quella, ma c'è la New York quotidiana, la New York, per esempio, Mario Soldati racconta di quando lui è arrivato e parla degli italiani che arrivano negli Stati Uniti e che non parlano bene la lingua e si devono adattare e così via. Hai voluto scegliere, oppure parli per esempio nel racconto di David Levitt, il problema dell'AIDS, dell'HIV, che insomma dagli anni 80 in poi si era veramente molto diffuso nella comunità soprattutto omosessuale newyorkese. Hai voluto narrare gli aspetti forse meno sbrilluccicanti di New York, perché? Sì, è proprio così, è anche una mia battaglia personale con chi va a New York e passa quella settimana canonica, insomma, che passano tutti i turisti la loro prima volta, tra Quinta Avenue, Statua della Libertà, Empire State Building, eccetera. New York è una città che è stata completamente stravolta e direi rifondata dall'ondata di immigrazione che è arrivata all'inizio del Novecento. Circa 12 milioni di immigrati nel primo quarto di secolo sono sbarcati qui, prima che nel 1924 l'America mettesse le sue prime leggi sull'immigrazione. Prima non ce n'erano, bastava arrivare e diventavi americano. 12 milioni di persone, di cui alcuni milioni si sono fermati a New York. E queste persone hanno fatto di una città che appunto prima era molto anglosassone, commerciale, borghese, eccetera, una città di tutt'altro tipo. Una città popolare, una città italiana, una città ebraica, una città afroamericana, una città portoricana nel corso del secolo. Una città cinese, sì. Insomma, veramente c'è di tutto. Queste come sono si le, dire. Le sue anime principali. E io volevo proprio che si capisse questo, che venisse raccontato. Poi sono una persona nata alla fine degli anni 70, e quindi il mio immaginario su New York si è formato su quei film, su quei libri che narrano l'epoca più selvaggia della città. Quella è stata proprio l'epoca nera di New York, il 1977, sì, la famosa Summer 80. Of Sam, gli anni 80, una città spaccata completamente in due tra i ricchi, lo yuppismo, la cocaina di Wall Street da una parte e i poveracci Harlem, il Bronx e l'eroina dall'altra. Anche la violenza, dall'altra. Erano periodi di grande violenza, sì, New York era una delle città più violente al mondo. Forse insomma, il mio film newyorkese per eccellenza è Guerrieri della Notte, quindi certo, un film che parla di lotta tra bande, di una notte vissuta così per strada a New York. Sono molto legato a questa New York qui, selvaggia, di strada, anche povera, violenta. Penso che lì ci sia la sua anima più autentica, non tanto nelle vetrine, nei grattacieli, eccetera, quindi volevo raccontarla in questo modo. Allora, so che farti questa domanda è insomma un po' imbarazzante, nel senso che chiaramente tu hai estratto alcuni racconti, abbiamo detto, di alcuni scrittori, ma ce n'è uno a cui sei particolarmente legato? Lo so che agli scrittori non bisogna mai fare queste domande, anche sui propri libri, figuriamoci quando prendono le antologie, però insomma c'è qualcuno di questi autori quantomeno che ti ha stupito? Non ti aspettavi che raccontasse New York in quel modo lì? Non mi aspettavo alcune cose, non mi aspettavo Truman Capote, nel senso che è un autore che viene un po' travisato secondo me, perché lui stesso sia così, poi dato un aspetto da scrittore molto chic, appunto è molto legato a quella parte di New York più luminosa, brillante e un po' fatua, no? E invece sia in Colazione da Tiffany, sia nel racconto che ho selezionato per questa antologia, narra una New York tutta diversa, che non c'entra niente con le feste, la mondanità, eccetera. Mi ha colpito moltissimo poi Don DeLillo, uno scrittore che non conoscevo tanto bene, perché io sono un po' spaventato e respinto dai romanzoni. Underworld, credo che sia 800-900 pagine il romanzo più famoso di Don DeLillo. Sono uno scrittore, un lettore di racconti, appunto rifuggo un po' coi mattoni enormi, e invece in questo racconto che si intitola L'Angelo Esmeralda racconta una storia bellissima di due suore, ma sono sostanzialmente due donne, che cercano di occuparsi di una ragazzina che vive per strada nel Bronx, tornano tutti i giorni a cercare di trovarla. Questo racconto cattura un aspetto molto importante della città, e cioè il fatto che a New York è una città di milioni di solitudini, è una città drammatica perché chi è solo a New York è solo come nessun altro al mondo, e per combattere questa solitudine l'unico antidoto è l'amore, l'incontro, l'amicizia, il prendersi cura dell'altro. E questo racconto parla di questo. Poi sono particolarmente legato ad altri due scrittori perché li ho conosciuti di persona, ho avuto la fortuna di fare dei documentari a New York, che sono Nathan Englander e Colson White, degli ultimi due. Grande raccontatore di racconti, appunto. Sì, così Nathan è uno scrittore ebreo americano che riprende tantissimo la tradizione del racconto Yiddish, quindi da Malamud, sì, da Singer, e la rivisita in questi racconti di fine secolo, mentre Colson Whitehead è un finissimo osservatore della città, quindi in questo pezzo di non fiction racconta un po', è quello che chiude il libro, racconta che cosa significa per lui essere newyorkese. È impossibile naturalmente comprendere in un volume tutti gli scrittori americani che hanno parlato di New York, però mi hanno colpito due assenze. David Foster Wallace, che è considerato insomma un autore di culto americano, anche lì il tomone Infinite Jest, però ha scritto anche dei racconti, David Foster Wallace, e Philip Roth, che è considerato insomma lo scrittore americano vivente di riferimento. Immagino che ci sia stata una scelta ben precisa se non li hai considerati. Sì, ce ne sono stati un altro nome che risuona per la sua assenza è Paul Auster, secondo Paul me. Paul Auster, anche giusto, certo. Il primo scrittore a cui penso quando penso a New York. Di David Foster Wallace avevo trovato un bel racconto. Parlava proprio delle Torri Gemelle, avrebbe potuto essere il racconto che chiudeva il libro, e parlava di lui. Parlava della sua mattinata passata davanti alla televisione, sì, come è successo da tanti di noi quel giorno, in Ohio, mi sembra, con delle massaie. E parlava di New York proprio molto da lontano, lontano, lontano. A me quello sguardo interessava di meno. Lui era uno scrittore che aveva la fobia delle città, non è mai, New York non l'ha mai amata. E poi c'erano dei bei racconti di Philip Roth, che da un libro che si intitola Dio Columbus, ma parlavano soprattutto della sua infanzia nel New Jersey. E quindi non ho trovato il racconto newyorkese di Philip Roth che mi sarebbe Quindi non è stata una scelta per autore, che non hai trovato la cosa giusta da inserire in questo percorso. Sì, sì, sì, così come di Paul Auster, mi sarebbe molto piaciuto che ci fossero questi nomi, così come anche di Kerouac, che ha passato a New York tantissimi anni della sua vita, ma non ho trovato il racconto giusto. Ecco, questo è un libro, dicevamo, di racconti di vari autori, che però si legge un po' come un flusso, no? Non solo perché è cronologico, tu vai avanti poi con gli anni, li hai messi in ordine cronologico, però è un modo anche di leggerlo come se fosse un romanzo, sono, non so, come diversi punti di vista su quella città, come se tu avessi fatto il collante fra questi autori nella scelta, perché le antologie sono sempre, come dire, fonte di un pensiero profondo, altrimenti sarebbe una cozzaglia di cose messe insieme. Sì, perché ho trovato che forse la storia dovrebbe essere insegnata in una maniera un po' diversa ormai. Credo che come l'hanno insegnata noi a scuola sia una visione così molto un po' noiosa e arida. E per esempio usare la letteratura a me sembra molto efficace, quindi si potrebbe leggere questo romanzo come una storia di New York del Novecento e c'è tutto quello che è successo lì nel corso del secolo. Grazie allora a Paolo Cognetti che ha curato questo libro, New York Stories, abbiamo detto è un'antologia di racconti di scrittori americani e non su New York, pubblicato da Einaudi. E come sempre in questo periodo segnaliamo i festival culturali che ci sono un po' in giro in tutta Italia. Allora, vi segnalo in particolar modo che dal 30 luglio al 7 agosto a Cortona, provincia di Arezzo, siamo quindi in Toscana, c'è il Cortona Mix Festival, un festival veramente, veramente bello, veramente entusiasmante, lo dico sempre ogni anno. Ci sono una serie di incontri con scrittori, ma ci sono anche film, concerti, insomma, lo dice il titolo stesso, è un mix di varie forme artistiche. Allora, spulciando qua e là nel programma, vediamo. Per esempio, ci sarà il Premio Strega 2016, Edoardo Albinati, autore di La Scuola Cattolica. Poi ci saranno forse il re e la regina delle classifiche estive, almeno per quanto riguarda quelle italiane. La regina è Simonetta Agnelorbi con Caffè Amaro e il re delle classifiche di questo periodo è Maurizio De Giovanni con una nuova puntata del Commissario Ricciardi. Quindi siamo nel giallo, nel noir. Al Cortona Mix Festival si parlerà di amore con Antonio Pascale e anche con Stefano Piedimonte, scrittore napoletano molto ironico. L'ultimo romanzo si intitola L'innamoratore. Tra l'altro, se volete sapere qualche particolare in più su questo romanzo, potete andare sul sito di Radio 24, cliccare nella sezione Il cacciatore di libri, perché è stato protagonista di una delle nostre puntate. Poi sempre al Cortona Mix Festival ci sarà Nikolaj Lilin, che era diventato famoso per la sua opera prima, Educazione siberiana, ora con un libro di spionaggio e amore, Spy Story, Love Story. Emiliano Poddi, con il bel romanzo sul basket, Le vittorie imperfette. Lo avevamo consigliato tempo fa nell'appuntamento del pomeriggio nel Sabato del Villaggio. Si parlerà invece di creatività con il fotografo Oliviero Toscani e per quanto riguarda i docufilm che verranno proiettati, per esempio Numero Zero alle origini del rap italiano e poi uno speciale sugli scrittori Henry De Luca e Claudio Magris che raccontano l'Italia. Tutti i particolari e il programma del Cortona Mix Festival lo ricordiamo a Cortona, provincia di Arezzo, dal 30 luglio al 7 agosto su cortonamixfestival.it. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Gianmarco Ferronato, vi ricordo come sempre che ci sono tutte le puntate di archivio del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it cliccando sempre nella sezione Il Cacciatore di Libri. Se volete essere aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.